Ricordo un'estate sui sogni, i battiti di cuore che fanno tremare. Una ragazza per mano più bella, di luce di un mattino, di un'alba speciale. Penso ancora a un amore finito di notte, su una spiaggia ai piedi, dentro al mare. Porto ancora molti segni di quell'incisi allora, sulla sabbia i nomi cancellati dalle onde. Ricordo quei giorni infiniti, le notti che passavano svegli a parlare, di fronte al suo naso, a quegli occhi che verdi di smeraldo al buio sanno brillare. Sento ancora il suo fiato che tiepido mi scorre sulla faccia e voglio respirare. Vedo ancora le sue labbra, tre dita dalle mie che vogliono sfiorare e respirare. Che un amore che nasce e muore sulla sabbia può tuttora ancora respirare. Io lo sento come vivo, come il vento che respiro, come sabbia che sparisce tra le mani. E torno spesso sulla spiaggia, mi siedo e pensando guardo il mare, con le onde che si inseguono e si spengono in disegni sulla sabbia. Cerco invano delle scritte i nostri nomi inventati, che ricordo ancora. E vedo che non basta più pensare a lei senza parole, quelle dette di fronte a me di notte su una spiaggia, ascolto ora nella brezza del mare. Sento ancora le sue labbra che sfiorano le mie, le dolci parole amate e sussurrate. Di colpo improvviso lo sguardo si fece di cristallo che cambia il colore. La ragazza più bella al mio fianco si allontanò e lasciò la mano mia cadere giù, come un'onda che sbatte. La sua voce decisa, devo andare via, l'estate muore e con essa il mio amore. Sono un'anima persa d'altro mondo e tu devi starne fuori. So che devo andare, dovrai dimenticare. Se un amore che nasce e muore sulla sabbia può tuttora ancora respirare, io mi chiedo dove è andata, se qualcuno l'ha incontrata, me la porti qui o mi dica dove sta. E torno spesso sulla spiaggia, mi siedo e pensando guardo il mare, con le onde che si inseguono e si spengono in disegni sulla sabbia. Cerco invano delle scritte i nostri nomi inventati, che ricordo ancora. E vedo che non basta più pensare a lei senza parole, quelle dette di fronte a me di notte su una spiaggia, ascolto ora nella brezza del mare. Sento ancora le sue labbra che sfiorano le mie e dolci parole amate e sussurrate. E torno spesso sulla spiaggia, mi siedo e pensando guardo il mare, con le onde che si inseguono e si spengono in disegni sulla sabbia. Cerco invano delle scritte i nostri nomi inventati, che ricordo ancora. E vedo che